Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinas. Oggi rimaniamo al di qua dell'Atlantico, e ovviamente l'Europa ha preso una forza stilistica nuova da ormai diversi anni. Sono dagli anni 70 praticamente gli stili che si sono succeduti in Europa hanno, come dire, si sono caratterizzati in maniera sempre più autonoma dagli stilemi tipici del jazz tradizionale americano. E prima degli anni 70 i jazzisti europei erano degli emuli, insomma, si cercava di copiare i vari stili americani. Ormai sono passati già più di 50 anni e questi 50 anni indubbiamente hanno determinato una serie di caratteristiche, magari anche specifiche a seconda dei paesi o delle zone europee. E il primo gruppo dal quale ascolteremo un brano è ormai una formazione che ha già più di una ventina d'anni, forse anche quasi 25. Si tratta degli Angles, fondati da Martin Cookin e da Magnus Bro, rispettivamente sassofonista e trombettista, svedesi e norvegesi, e che hanno ormai preso una forza veramente notevole, perché le prove discografiche sono veramente innumerevoli. In questo caso sono 11 gli elementi. Gli Angles hanno una formazione variabile che va anche da 6 o 7 elementi fino a 12 in alcune occasioni. Questa ultima produzione di Cookin è una formazione di 11 elementi. Indubbiamente negli ultimi anni si stava affievolendo la spinta creativa di questo gruppo, ma alcuni cambiamenti stilistici e anche alcune immissioni di musicisti nuovi, e la più importante è sicuramente la tromba di Susana Santos Silvas, che si è aggiunta a quelli più, diciamo, di provenienza scandinava, ed è indubbiamente una formazione di tutto rilievo. Le composizioni sono sempre piuttosto caratterizzate da una sorta di orgia musicale e su temi ricorrenti, su temi ossessivi. In questo caso il titolo del disco è Tell Them This, The Sound of Freedom, e ha cambiato la casa discografica, la Fundacia Zlukai, e quindi contrariamente alle prove precedenti che erano della Clean Feed, quindi etichetta portoghese, oppure di quella norvegese. Il risultato direi che non è eccezionale, ma comunque è sicuramente degno di essere presentato, di essere ascoltato. E ne ascoltiamo un brano abbastanza rappresentativo della forza, ancora del divertimento col quale Cookin e soci si cimentano anche in questa occasione. Ascoltiamo appunto questa formazione. I musicisti sono i soliti, ma principalmente, non so, nomi, i nomi più rilevanti possono essere Mattia Stahl al vibrafono o Bartling al contrabbasso, poi naturalmente, come ho detto, la Santos Silva alla tromba insieme anche a Magnus Bro. Poi due batterie, Michaela Antalova e Keil Nordensen, e altri. Ma è interessante comunque sentire la formazione orchestrale, la scrittura dell'arrangiamento di questo brano, che ha delle caratteristiche sempre di grande vigore. Ascoltiamo questo brano dei Angles. We'll be right back. era Martin Kuchen, l'orchestra, diciamo, principale, il progetto più al quale più affezionato, Martin Kuchen, sassofonista, compositore, che è leader di molti gruppi, tra l'altro norvegesi o comunque scandinavi. Questo alla guida degli Angles, in questo caso Angles 11, con l'ultimo prodotto, l'ultimo disco uscito, e che ancora una volta riesce a dare un'energia non da poco, diciamo, dopo tanti anni. Passando invece a personaggi decisamente poco conosciuti, forse sconosciuti, il prossimo disco è di un sassofonista tedesco, un giovane, un ragazzo, neanche trentenne, dovrebbe avere 26-27 anni. Si tratta di Fabian Dudek, che è emerso alcuni anni fa come un talento promettente, segnalandosi in Germania, però sempre in Germania, come uno dei talenti più interessanti dell'ultima generazione. E in questo caso lo ascoltiamo in un disco uscito nel 24, quindi ha già quasi due anni, un anno e mezzo, questa registrazione, perché è uscito anche nel 2025 con un disco nuovo, e nel quale poi vede anche un ospite, che è un ospite d'onore, si può dire, perché Ingrid Lohbruck è sicuramente una delle musiciste tedesche più importanti, più conosciute a livello internazionale. Tra l'altro abita poi da tempo negli Stati Uniti. Ma Dudek, che in questo caso, secondo me, è la prova migliore che ha dato questa che ascolteremo, è uscita nel 24. È un quartetto ben consolidato, ben rodato, anche con un interplay, una capacità di conoscenza reciproca decisamente notevoli. Sono quattro ragazzi. E Fabian Dudek è compositore e anche leader del gruppo, ma importanza enorme ce l'ha ad esempio il pianista Felix Hauptmann, perché ha una preparazione classica veramente imponente, e quindi alle tastiere riesce a ricamare sopra le strutture costruite da Dudek in maniera egregia. Poi la batteria di Fabian Arends e il contrabbasso di David Helm. Il disco è intitolato Distant Sky We Dream. Ascoltiamo tre brani presi da questo, perlomeno in parte, perché alcuni sono un po' troppo lunghi, quindi sono un po' ritagliati. Comunque sono tre brani che danno l'idea di quali qualità abbia questo giovane sassofonista, e quali sia l'insegnamento classico del jazz tradizionale, del jazz più autentico, che è ormai recepito nel linguaggio costante di Fabian Dudek. Thank you. Questo era Fabian Dudek, promessa della musica tedesca e non solo, con una formazione interessante, molto compatta, disco intitolato Distant Sky We Dream, un disco per un'etichetta, la Taumont Records, uscito appunto un anno e mezzo fa più o meno. E passando da un altro gruppo, in questo caso ingiustamente sconosciuto, si tratta dei Spinifex, una formazione olandese che prevede 9 elementi, quindi un nonetto. È una tipica, diciamo, la musica olandese, che risente di una serie di spunti ironici, una musica melodica, una musica strutturata appunto su una clownerie spesso piuttosto diffusa, e su un'attenzione all'aspetto melodico, all'aspetto lirico molto forte. È un gruppo che ha come formazione piuttosto soffusa, non è una musica aggressiva questa, però riesce a mantenere una vitalità e una spinta propulsiva sempre di alto profilo. Direi che si può quasi definire una formazione al confine con la musica classica, e anche se spesso non lo dimostra certamente. In questo caso, nel gruppo, diciamo, ormai storico, credo che sia una quindicina d'anni che si è formato, e questo Spinifex, un ospite d'onore, Jessica Pavone alla viola, quindi è una formazione che prevede viola, violoncello, poi vibrafono, clarinetti, insomma, tromba, insomma, sono tutti gli strumenti, diciamo, che danno la possibilità timbrica di esprimere una percezione di piccola orchestra, come peraltro è. E ascoltiamo questo Spinifex Maximum, il titolo è Maximum, uscito per la Tyron nel 25. Thank you. Thank you. Questo erano un gruppo Spinifex, un gruppo storico olandese, con l'ultimo lavoro uscito, Maximum, intitolato Maximum, una formazione di Nonetto, e il risultato, come abbiamo ascoltato, decisamente apprezzabile, almeno secondo me è un disco tutto da ascoltare con piacere e attenzione. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti e alla prossima.